Nell'estate del 1848 il Boston Medical and Surgical Journal usciva con un titolo ad effetto: incidente straordinario, due punti, passaggio di una sbarra di ferro attraverso una testa. Si trattava di una sbarra peraltro cospicua, quasi mezzo metro di lunghezza, 5 buoni centimetri di diametro, 6 kg di roba. Una sbarra che un'esplosione fortuita, dopo averla fatta passare per una guancia poco sotto lo zigomo, averla fatta uscire dalla regione frontale di un cranio, l'aveva cacciata ad una trentina di metri di distanza. Il cranio in questione apparteneva a Phineas Gage, un bravo giovane operaio delle ferrovie del Vermont, che così, diciamo, che già a 25 anni si meritava un posto di tutto rispetto nella storia delle neuroscienze. Negli anni successivi il suo caso sarebbe stato studiato da parecchi, da Ferrier, da Charcot e Pitre, da Bouillot, da Trousseau, via via da altri, venendo infine ripescato fin nei giorni nostri da Damasio, nell'errore di Cartesio, quel libro che uscì nel 1994. Phineas doveva essere un ragazzo in gamba, robusto e poco impressionabile. Invece di dire oibò e stramazzare al suolo tentando di tirare il suo ultimo respiro, rimase un'oretta sul chi va là e poi, incurante della vasta porzione del cervello suo spalmata sui binari, si trascinò fino al medico più vicino per raccontargli l'accaduto. Subì un lungo ricovero, ma visse la sua vita quasi uguale alla precedente per altri 12 anni, allo scadere dei quali fu stroncato da un micidiale attacco epilettico. La sua vita di miracolato non fu esattamente la stessa, allora, a quanto raccontano le cronache. Non fu la stessa perché, a dire il vero, per quanto il giovane Phineas prima della cura fosse laborioso, da bene gentile, dopo la cura divenne tutt'altro. Manifestò gravi cambiamenti nel carattere, trasformandosi in un vagabondo per di giorno, facilmente irritabile, bugiardo e imbroglioncello, sì. Se sulle prime, dunque, la curiosità degli scienziati fu attirata dal suo caso per i nuovi rapporti che nell'anatomia del cervello potevano essere posti fra parti dell'organo e funzioni come quelle sensorie e motorie, sulle seconde qualcuno pensò di poterne trarre conclusioni in ordine alla morale e, guarda un po', alla sua localizzazione nel cervello. Che un ragazzo che si ritrova con un buco di 5 cm dalla faccia alla sommità del cranio potesse anche perdere il suo caratteristico buon umore, non fu preso poi in soverchia considerazione. Albert Einstein è morto a Princeton nel 1955. Aveva lasciato disposizioni perché fosse cremato, ma alcuni medici chiesero alla famiglia il permesso ufficialmente di fargli l'autopsia, prendendosi qualche libertà in più, perché fu in quell'occasione, proprio in quell'occasione, che il dottor Thomas Harvey, quatto, assolutamente di sua iniziativa, dopo avergli pompato dentro formalina attraverso il sistema arterioso, gli espiantò il cervello. Ne fece 240 fettine. ne fece 240 fettine che incastrò in fogli di celloidina, che è un materiale resistente e tuttavia perfettamente trasparente, che poi conservò con la birra nel frigo di casa sua per future analisi, no? Future analisi che da qualche tempo in qua portano ai seguenti risultati. I lobi parietali del cervello di Einstein sembrerebbero più spessi e il solco che li divide, la cosiddetta scissura di Silvio, sembrerebbe più sottile. Primo. Secondo, le cellule gliali, ovvero quelle cellule che avvolgono i neuroni, sembrerebbero molte di più di quelle dei cervelli altrui. Il significato di tutto ciò è perlomeno dubbio. C'è chi ha ipotizzato che un solco più sottile fra i lobi faciliti la loro cooperazione, e chi sulla base delle cellule cerebrali cresciute in topi addestrati a percorrere labirinti complicati, salire scale o adondolarsi sull'altalena, tutte attività che se svolte da loro sarebbero sintomi di intelligenza, c'è chi comincia a ritenere che le cellule gliali svolgano rilevanti funzioni in rapporto al cosiddetto pensiero. Ulrike Meinhof è morta nel 1976. Era in carcere, accusata di terrorismo, e per lei, come per gli altri suoi compagni di sventura, ufficialmente si è trattato di un suicidio, uno dei suicidi collettivi meno credibili che la storia ricordi. Solo recentemente, denuncia della figlia, ci tocca di venire a sapere che, oltre a tutto, le venne espiantato il cervello che oggi fa bella mostra di sé in un contenitore dell'Istituto di Psichiatria e Medicina Psicosomatica dell'Università di Magdeburgo. L'hanno analizzato e hanno scoperto che, fra le altre disgrazie della sua vita, alla povera Ulrike era anche capitato un tumore che le era stato asportato nel 1962 all'età di 28 anni. L'hanno poi posto a confronto il suo cervello con uno che evidentemente ritenevano particolarmente idoneo allo scopo che li muoveva. L'hanno posto a confronto con il cervello di un tal Wagner, che nel 1913 aveva fatto strage di moglie, figli e altre 9 persone. Il tipo di attenzioni che hanno ricevuto i cervelli di Phineas Gage, di Einstein, Ulrike Meinhof, è generato da una matrice che contiene stupidità scientifica e malafede ideologica in parti uguali. Phineas è cambiato dopo l'incidente e l'occasione viene colta al volo per pretendere di poter individuare le norme di comportamento e i relativi giudizi inscritti nel cervello come fossero una via o una piazza cittadina in una mappa. È il modo con cui Phineas viene categorizzato dagli altri che determina il senso delle ricerche che verranno effettuate sul suo cervello. Di Einstein ovviamente si cerca il genio, e neppure una delle sue 240 fettine viene confrontata di qua o di là per la conferma o meno di altre caratteristiche. Avrebbero potuto essere confrontate con le corrispondenti fettine, che so, di un maschilista insopportabile, di uno che si lavava malvolentieri o di uno che non ha mai amato i propri figli, ma per farlo si avrebbe dovuto modificare il paradigma narrativo costruito negli anni per avvalorare la sua persona. Di Ulrike si cerca la criminalità. Ma si cerca la criminalità dopo aver posto almeno due rapporti che con le neuroscienze non hanno sicuramente a che fare, mentre hanno molto a che fare con il quadro ideologico in cui la memoria sociale della persona deve perpetuarsi. Il primo rapporto è quello che vi è imposto fra il tumore e l'opzione politica. E il secondo è quello fra l'opzione politica e il crimine in quanto tale qualunque esso sia, purché sia tanto come crimine. In attesa di un gene che lo codifichi, abbiate pazienza e i dulbecchi lo trovano, in attesa di un gene che lo codifichi, il comunismo è innanzitutto patologia individuale prima che sociale e infine, affinché lo studio della storia possa essere concesso senza soverchie e preoccupazioni per l'ordine pubblico, il comunismo diventa crimine individuale prima che sociale.